9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 14 di aprile. Il tema del confronto di oggi con i nostri ospiti e con le vostre impressioni, chiamate all'800 24 0024, sono i due documenti che ieri il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha sottoposto al Consiglio dei Ministri, che il Consiglio dei Ministri ha varato la decisione di economia e finanza e il piano nazionale delle riforme. La decisione di economia e finanza e il piano nazionale delle riforme costituiscono da questo mese di aprile una omologazione della legislazione contabile, delle procedure di contabilità pubblica italiana all'Europa. Sono parte integrante della nuova disciplina che l'Europa ha imposto ai Paesi membri per consentire di estendere lo scrutinio fatto da Bruxelles fino a questo momento esclusivamente sugli obiettivi programmatici e poi sui saldi di bilancio pubblico, in linea con, ricordate, quelli che erano i criteri di Maastricht del deficit e del debito pubblico. Ma dalla grande crisi che abbiamo alle spalle, che ancora non è finita, l'Unione Europea, per accordo di tutti i Paesi, ha esteso la sua il suo esame non solo agli andamenti del bilancio pubblico, ma chiede a ogni paese di predisporre in maniera annuale, ma in una prospettiva pluriennale, esattamente come si fa per i conti, le misure a sostegno della crescita dell'economia. E quindi questi due documenti costituiscono la scadenza che sostituisce il vecchio documento di programmazione economica finanziaria, che era già cambiato negli ultimi anni, ma insomma che ci aveva abituato a costituire poco più che un'osservazione, a dire la verità, in termini generali e non impegnativa, che arrivava prima dell'estate, perché poi in realtà il più si faceva con la finanziaria a fine anno. Già da 3 anni a questa parte, con appena nacque l'attuale governo, il ministro dell'economia Tremonti anticipò l'impostazione pluriennale della messa sotto controllo dei conti a prima dell'estate, e quindi la finanziaria divenne una mera traduzione delle correzioni e delle impostazioni fatte a metà anno, in corso d'anno. E questa fu una significativa novità che tra l'altro valse all'Italia evitare il ballo dell'eurodebito negli anni successivi, quando poi nel settembre esplose Lehman Brothers e la crisi divenne incipiente in poche settimane. In poche parole, i documenti che cosa prospettano? Poi lasceremo agli ospiti illustrarli e criticarli. La decisione di economia e finanza ribadisce uno scenario che fa del rientro e dell'azzeramento del deficit per il 2013-2014 l'impegno più stretto e rigoroso per questo governo. Il deficit dell'anno scorso, nel 2010, è stato inferiore alle aspettative, si è chiuso al 4,6% rispetto al 5,3% dell'anno precedente, e il deficit pubblico quest'anno è previsto per il 3,9%, per il 2012 nel 2,7%, con l'obiettivo di arrivare all'azzeramento attraverso l'aumento del saldo primario nel biennio successivo. Le stime di crescita sono state corrette verso il basso, perché per l'obiettivo per quest'anno era il 2%, e invece nel 2011 la crescita sarà dell'1,1% e rimarrà di poco superiore all'1% anche negli anni a venire. Nella sinossi fatta dal governo, l'1,3% nel 2012, l'1,5% nel 2013. Conservative anche le stime per i disoccupati, perché i disoccupati resteranno in quest'anno l'8,4%, per scendere ma di pochissimo, di uno 0,1 fino all'8,3% nel 2012 e rimanere comunque all'8,2 nel 2013, all'8,1 nel 2014, sostanzialmente quindi una cifra inferiore sì all'attuale media dell'Unione, ma consistente. E consistente in ragione del fatto che la crescita attesa è, come avete visto, di poco superiore all'unità. Quanto invece al Piano Nazionale delle Riforme, il Piano Nazionale delle Riforme in realtà non aggiunge a ciò che si sapeva essere già presente nei cantieri del governo, articolato in diversi capitoli. Si fa un punto degli effetti a medio e lungo periodo degli interventi sulla previdenza, si ricapitano le somme stanziate dal CIPE, e con difficoltà però di tradurre l'intervento di cassa per le infrastrutture, si assume l'obiettivo rispetto alla strategia 2020 postaci dall'Europa, di arrivare almeno al 75% di occupati. Attualmente siamo a poco più del 60%. Si pone l'obiettivo realisticamente di riuscire, di tentare di arrivare al 68-69%. Non ce la si farà a fare di più. Ricordo a tutti che nel nord siamo già praticamente a percentuali europee. Il problema è del sud, che sta rispetto all'obiettivo del 75% a una distanza talvolta di 25 punti di occupati, ed è lì ovviamente il nostro problema. La stima nel documento mi sembra un po' generosa, a dire la verità, del governo sull'impatto delle misure, che sono quelle che conosciamo, perché non se ne sono aggiunte di nuove in 4 anni, e dell'aumento della crescita per effetto delle misure assunte e previste dal governo dell'1,6%, cioè dello 0,4% in ragione annua per 4 anni. A me sembra un pochino generosa, ma comunque ieri, nel presentare poi un provvedimento che ha seguito a poche ore di distanza il varo di questi due documenti, il ministro dell'economia, insieme al presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ha illustrato gli incentivi che il governo, coerente con le misure assunte l'anno scorso, ha messo a disposizione delle prime reti di impresa che nascono. Questo concetto è entrato nella legislazione italiana dalla scorsa estate, grazie a Confindustria e all'impegno delle imprese territoriali sono nate fino a questo momento ben 41 diverse reti di impresa, e in quell'occasione il ministro dell'economia ha fatto una battuta polemica rispetto a ciò che aveva detto il presidente di Confindustria, lanciando le assise, e aveva detto: ma Marcegaglia, le imprese si sentono spesso sole in questo paese perché la crescita è molto bassa. Il ministro dell'economia ha detto: è già finita la solitudine, è durata pochi giorni. E il presidente di Confindustria l'ha rimbeccato dicendo: no, veramente la solitudine delle imprese cesserà quando vedremo misure atte a darci la crescita. E vediamo come la pensa innanzitutto l'opposizione e il governo di questi due documenti. Abbiamo con noi il sottosegretario all'economia Luigi Casero. Buongiorno Casero. Buongiorno. E Stefano Fassina, che è responsabile economico del PD. Buongiorno Fassina. Buongiorno. Allora Fassina, io comincerei proprio con lei. La sua opinione sugli obiettivi macro dei saldi finanziari, della decisione economica finanziaria, e la sua opinione sulla programmazione delle riforme, sapendo che poi ieri Bersani, il segretario del suo partito, ha illustrato il contropiano, cioè quello del vostro partito. Prego Fassina. Cominciamo da quest'ultimo punto, perché poi è quello, come lei ricordava, nel quadro della governance europea, è quello più rilevante, perché definisce la strategia di medio periodo. Più che un programma nazionale di riforme, per noi è un programma nazionale di rassegnazione, perché che in un decennio noi non riusciamo a raggiungere, in un decennio, ripeto, rimaniamo lontani da obiettivi fondamentali che sono medie dell'Unione Europea, come le spese, gli investimenti in ricerca e sviluppo, il tasso d'abbandono scolastico, la quota di laureati, per non parlare dell'occupazione, è molto preoccupante. Il governo, da un lato, dice che ha già messo in campo buona parte di quello che serve al paese, dall'altro, quello che ha messo in campo in un decennio non riesce a farci nemmeno raggiungere gli obiettivi medi europei. Secondo noi è un approccio rinunciatario che dimostra che questo governo, sul piano politico per il paese, al di là delle vicende personali del Presidente del Consiglio, ha molto poco da dire. Sono completamente assenti i capitoli fondamentali. Penso a tutto quello che riguarda le liberalizzazioni, non c'è nulla. Si era anticipato da parte del Ministro dell'Economia in questo documento un intervento, una definizione delle linee guida di riforma fiscale, e non c'è meno questo. Si fa riferimento al decreto sul fisco municipale, che è carente sotto tutti i punti di vista, e lo stesso Calderoli ha dato la disponibilità a correggerlo. E poi c'è una reticenza rispetto a quest'anno, perché tutti gli istituti internazionali, da ultimo il Fondo Monetario, ci dicono che noi non centreremo l'obiettivo di indebitamento nel 2011, cioè faremo almeno il 4,3 rispetto all'obiettivo del 9, perché il PIL cresce meno di quello che era previsto, perché alcune misure sulle entrate e sulle spese non vanno come previsto, e il ministro continua a dire che non serve una manovra correttiva. Io credo che, finita la campagna elettorale per le elezioni amministrative, a giugno ci troveremo di fronte all'ennesima manovra correttiva. Sarà la tredicesima in 3 anni di governo per tentare di raggiungere un obiettivo che rimane sempre lontano, perché non facciamo quelle riforme che servono alla crescita. Il ministro insiste giustamente a sottolineare l'importanza della stabilità finanziaria, e noi siamo quelli che più abbiamo lavorato nel paese, prima nel 92 e 93, poi nel 96, poi ancora nel 2006 per la stabilità finanziaria, ma ormai è evidente che la stabilità finanziaria senza un shock veramente riformista sulla crescita non porta da nessuna parte. Se noi non aumentiamo la crescita, se continuiamo ad andare all'1% nel decennio, all'1,2, all'1,3, non riusciamo a raggiungere quegli obiettivi sul debito che l'Europa ci chiede. Noi abbiamo presentato un programma alternativo, in realtà non ieri, ma già a fine marzo Bersani ha inviato a Tremonti le nostre proposte, che sono costruite in modo tale da raggiungere l'obiettivo di riduzione del debito che l'Europa ci chiede al 2020. Non abbiamo avuto risposte dal Ministro. Noi speriamo che in Parlamento ci possa essere l'occasione per entrare nel merito, perché così non va. Non è possibile che noi nemmeno nel 2015 riusciamo a recuperare la disoccupazione che si è generata durante la crisi. Abbiamo bisogno di riforme vere, e questo documento, come lei ricordava, ricapitola alcune misure che sono state già prese, ma che non riescono a dare al Paese quella scossa di cui ha bisogno. Sottosegretario Casero, Draghi, ieri il governatore della Banca d'Italia, intervenendo alla Biennale della Democrazia a Torino, ha ricordato che per ridurre il debito il PIL deve salire del 2% all'anno, e ha aggiunto una frase che sicuramente il governatore non fa parte dell'agone politico, ma è inevitabile leggere come un richiamo rivolto ai governi pro tempore, perché ha sostenuto Mario Draghi: usciamo dalla crisi con i vecchi problemi strutturali, li avevamo prima e non si sono risolti, sono sempre lì. Ecco, al di là del ricordare come la pensa la Banca d'Italia, lo spirito e i contenuti, gli obiettivi del realismo che ispira i due documenti di ieri? Innanzitutto, giustamente è stato detto, sono documenti molto realistici, cioè fotografano la situazione attuale, cercano di individuare quali punti possibili possono essere realizzati per ridare smalto, ridare forza al Paese, e cerca su questi punti di investire. Io vorrei ricordare innanzitutto l'operazione sulla salvaguardia dei conti. È stato citato prima il dato che l'anno scorso il deficit ha avuto un miglioramento fra il previsto e il realizzato. Sono dati sicuramente molto positivi, che dimostrano che da questo punto di vista, che ricordiamoci che in Europa è considerata il punto più debole della politica economica italiana, il governo ha fatto e sta facendo molto, e questo lo si vede con i dati concreti. In secondo luogo, il documento contiene una serie di elementi che rappresentano la politica che il governo italiano sta cercando di realizzare nella politica economica europea. Non solo azioni sul debito, sapendo che il debito pubblico per noi è un punto di debolezza, ma sul debito complessivo. Abbiamo introdotto il fatto di considerare il debito delle famiglie, il debito dei grandi istituti finanziari, sono punti di forza nel nostro paese, di debolezza di altri paesi. L'Europa deve considerare anche tutto questo. E poi un'azione su alcune riforme di sviluppo, che sono azioni fondamentali di cui tutti ne parlano e che devono essere realizzate. Il documento contiene, comincio a citarne due campi, uno sulle semplificazioni e uno sulla riforma fiscale, che sono due elementi fondamentali su cui è necessario un'azione condivisa. Quindi van bene che vengano i documenti inviati dall'opposizione vengano valutati dalla maggioranza e che poi si vengano realizzare, e da questo punto di vista, a fronte di azioni che devono essere realizzate, è necessario che quando si inizia il dibattito in Parlamento, ne parlava Fassina, poi il dibattito in Parlamento abbia dei risultati concreti. Voglio citare non polemicamente due esempi che sono minimali, che però dimostrano un po' il clima. Sulla cedolare secca degli affitti, il Partito Democratico ha sempre sostenuto nei mesi scorsi questa posizione. Al momento in cui è stata realizzata sono partite delle critiche pesanti, come il documento contiene ad esempio il fatto di cercare di inserire nella Costituzione, come hanno fatto Germania e Francia, il tasso massimo di indebitamento che può essere raggiunto dal Paese. È una proposta che ha fatto il Partito Democratico al Senato, l'abbiamo ripresa in questo campo. Su questi elementi dovrebbe esserci un'azione forte e un'azione condivisa, perché sono obiettivi che devono essere raggiunti. Sulla riforma fiscale, il documento contiene a grandi linee guida, poi ci saranno le commissioni che porteranno avanti questo lavoro e lo dovranno realizzare. Ad esempio, il riequilibrio fra imposte dirette e imposte indirette, a fronte dell'aumento delle indirette e diminuzione delle dirette, che ricordiamoci fino a qualche anno fa era considerato quasi, parlare di questo tema, quasi un'anomalia nel dibattito delle politiche fiscali del Paese. Mi sembra che su questo ci sia un'azione un po' condivisa di tutte le parti sociali, forze politiche, e su questo è un altro punto su cui si può lavorare, come il fatto di andare a rivedere, diminuendo le tasse, tutta la politica di agevolazione a pioggia che rappresenta uno delle anomalie del nostro Paese su cui si deve lavorare. Secondo me su questi temi si possono realizzare velocemente obiettivi comuni e obiettivi che questo governo comunque vuol portare avanti e che realizzerà, che si avranno per il Paese. Fassina, su quest'ultimo punto le posso chiedere qualche considerazione? Vede margini sulla politica economica diversi dalle altre politiche? Sulle altre basta vedere in Parlamento come stanno le cose rispetto alle leggi di cui si discute, la prescrizione breve, e ovviamente l'opposizione lì non può e non cede neanche un millimetro. Ma sulla politica economica e nel rapporto con Giulio Tremonti, che ci ha sempre tenuto anche un po' a distinguersi, per così dire, oramai dal resto del governo, spesso andando a iniziative della CGIL, andando alle assemblee della CGIL, presentandosi a trasmissioni dove altri componenti del governo magari hanno toni diversi, c'è la possibilità che l'opposizione gli riservi a lui personalmente, ma alle sue misure, alla politica economica del governo, attenzione e magari anche qualche tentativo di avvicinamento condiviso, secondo lei, Fassina? Ma noi ci proviamo da tempo, l'invio Bersani ha fatto a Tremonti del nostro piano nazionale di riforme non è stato un atto formale, è stato un atto sostanziale per chiedere un confronto vero nel merito. Purtroppo, come credo lei sappia, in Parlamento non funziona così, perché si va avanti a decreti legge, a maxi emendamenti sui quali poi si mette la fiducia. Quindi da parte nostra c'è tutta la disponibilità. Faccio l'esempio della cedolare secca che ora ricordava Casero. Noi siamo rimasti convinti che sia una misura utile. Il problema è che era inserita nel decreto sul fisco municipale, nel quale oltre alla cedolare secca si prevede l'innalzamento dell'addizionale comunale, si prevede l'imposta di soggiorno, si prevede l'imposta di scopo e si prevede il raddoppio della patrimoniale sui beni di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Per questo abbiamo detto no, non perché abbiamo cambiato idea. Cioè, se ci sono misure coerenti che guardano veramente all'interesse del Paese, noi auspichiamo una discussione vera e profonda, perché soprattutto in una fase difficile come questa dobbiamo aggredire alcuni nodi di fondo. Però al di là della presenza in TV o a qualche manifestazione della CGIL, il ministro Tremonti poi in Parlamento e la sua maggioranza questa disponibilità al confronto di merito la vengono a negare sistematicamente. Noi abbiamo sulla riforma fiscale, le faccio un esempio per farci capire, la nostra proposta è stata oggetto di una questione alla Camera al 22 dicembre scorso, che ha avuto il parere favorevole del governo ed è stata approvata. Partiamo da là. Ora nel piano nazionale di riforma del governo non c'è nulla, al di là delle indicazioni generiche che Tremonti ripete dal 94, non c'è nulla. Partiamo da là, disegniamo una strategia e poi nei limiti di finanza pubblica che abbiamo e sono stretti, vediamo quali primi passi si possono fare. La nostra disponibilità c'è, verificheremo se c'è effettivamente la disponibilità del governo, ma noi siamo assolutamente interessati a un confronto di merito, perché i problemi sono i problemi del Paese, non i problemi di Tremonti o di Berlusconi. Casero, c'è chi dice che, a dire la verità, ciò che lamenta l'opposizione lo lamentano anche molti colleghi del governo di Tremonti, cioè di non vederlo troppo convergente. Ma al di là di questa battuta, di sicuro le imprese leggono una colonna ed è quella della pressione fiscale e vedono che è prevista praticamente stabile nei prossimi anni, anzi per il 2012 se ne prevede un lieve incremento per via degli andamenti di cassa, e in questo c'è una frase nel piano nazionale di riforme che è esplicita e dice: rispetto alle attuali previsioni dei saldi pubblici e al problema del debito aperto in Europa, bisogna essere chiari, dice, anche la riforma fiscale, di cui si ricordano i presupposti e non se ne prendono impegni per l'impatto dell'economia, perché bisognerà prima predisporre nei particolari, si dice, deve essere finanziariamente neutra, cioè non sperate, in altre parole, che serva a diminuire la pressione fiscale. Casero, si stupisce se poi le imprese dicono che si sentono sole? Ma noi, dicevo, abbiamo un obiettivo comune, che è quello della riduzione del deficit e del debito, perché il deficit un po' lo stiamo riducendo, dobbiamo andare avanti a migliorarlo, e quindi deficit e debito. Lo si può ridurre intervenendo sui conti e in generale sulle entrate. A questo punto l'azione che può essere, cercando di sintetizzare, può essere fatta miglioramento della spesa pubblica, quindi con alcuni tagli che devono servire a ridurre il deficit e quindi il debito, interventi, dicevo prima, di miglioramento del rapporto e rinnovo, diciamo, del rapporto fra imposte dirette e imposte dirette, e che questo può sicuramente favorire le imprese e favorire lo sviluppo e la crescita, e interventi di per esempio di definizione di agevolazioni, detrazioni e diciamo stimoli che vengono dati su alcune detassazioni che esistono, però date a pioggia, indirizzando questo risparmio verso, abbiamo detto, la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo, sempre come riduzione di tasse o anche sulla pressione complessiva, proprio per cercare di stimolare lo sviluppo. Nell'ambito di questo intervento, che è neutro dal punto di vista, diciamo, della pressione complessiva, secondo noi può dare invece dei grossi vantaggi allo sviluppo, e quindi a cercare di raggiungere quel 2% di cui parla Draghi, per poi poter riuscire ad intervenire, dicevo, veramente nella riduzione del debito, e a quel punto, con i conti più in ordine, riuscirà a diminuire anche la pressione complessiva. Va bene, vedremo, un po' di delusione c'è, poi figuriamoci in un fottuto liberista come sono io, ma comunque, grazie a Luigi Casero, grazie a Stefano Fassino, ora in pubblicità poi con due direttori di quotidiani. Eccoci tornati in studio, cari radioascoltatori, abbiamo sentito le voci del sottosegretario all'economia e le voci responsabile economico del PD. Ricordate pochi giorni fa, quando abbiamo a inizio settimana affrontato lo scenario dei conti pubblici e della crescita, ma in quel caso dell'America, e abbiamo visto che in quel caso, quando non si raggiunge una convergenza in Parlamento, addirittura si chiudono gli uffici federali, proprio per evitare questo si obbliga, per così dire, la maggioranza e l'opposizione, quando le Camere e il Congresso non sono uniformi come maggioranza, a raggiungere dei compromessi. Avete visto, lo ricordate, il compromesso è un fior di compromesso, perché ci sono 39 miliardi di dollari da tagliare in 6 mesi, praticamente 78 miliardi di dollari da tagliare su base annua, e abbiamo parlato dell'evidenza, dell'impatto enorme delle proposte repubblicane e democratiche rispetto agli andamenti pluriennali della spesa pubblica e agli effetti sulla crescita americana, visto che, per esempio, a oggi una delle più discusse proposte repubblicane, quella di Paul Ryan, propone l'abbattimento del prelievo in termini di PIL rispetto alle proposte dei democratici di più di 4 punti di PIL, quindi una differenza abissale rispetto alle condizioni attuali del paese. Abbiamo anche parlato del fatto che l'America mente sui conti, perché ci dice di avere oggi un debito pubblico al 70% e che arriva al 90% entro 10 anni, ma se dovesse redigere e presentare i conti pubblici secondo i criteri nostri e quelli europei, già oggi dovrebbe dire che ha un debito pubblico non del 70% ma del 140%, e che il rischio è che vada al 350% addirittura entro 20 anni. Però abbiamo visto come con i numeri in America si fa la politica, battendosi molto, ci si divide molto, ma i numeri delle proposte sono numeri di impatto, cioè non sono numeri, per così dire, inerziali, non sono numeri di fronte ai quali si dice prendete realisticamente atto che questi sono e ringraziate che non vadano peggio, ma sappiate che si può far poco. Ecco, la prospettiva invece che anima questi anni italiani è un po' quella di dire: siamo molto responsabili, facciamo poco deficit, è vero, ma per il resto, ragazzi, calma e gesso, perché cresceremo poco, dell'1%, ma quantomeno evitiamo il peggio. A me non sembra una gran prospettiva e per questo dichiaro sempre di essere molto deluso. Sentiamo come la pensano adesso pochi ascoltatori, perché poi abbiamo due direttori di quotidiani a cui chiedere l'opinione su questa impostazione riconfermata dai due documenti presentati ieri dal governo. Cominciamo con Marco. Marco ci chiama dalla provincia di Arezzo. Prego Marco. Buongiorno dottore, innanzitutto esprimo tutta la mia gratitudine a lei per le sue opinioni liberiste in questo paese. Grazie. Ingestato. Nulla, si parla tanto di fisco, ma al di là del fisco io sono un imprenditore. Quando sono in deficit io chiudo le spese, non è per aumentare il prezzo dei miei beni. Cerchiamo di ridurre le spese della politica. Non è possibile che ci siano dei mandarini che guadagnano, udite, 1500 euro al giorno di vitalizi. È una cosa inaudita. Lì dobbiamo agire. Marco, qualche sabato scorso il Messaggero ha documentato, è andato a fare le pulci ai provvedimenti annunciati da Tremonti dello scorso mese di luglio, a vedere poi come la riduzione degli emolumenti disposta per i costi della politica è stata poi tradotta in concreto. E Alberto Gentili e del Sole 24 Ore firma oggi il commento sulla misura del governo, ma Alberto Gentili del Messaggero ha dimostrato, iniziando da Camera e Senato, come a Camera e Senato la riduzione dell'entità è stata non è arrivata al 10% invece che essere del 15% come doveva essere, che in moltissime autorità non si è fatto praticamente nulla, che l'antitrust che ha tentato di adottare i tagli così come erano stati indicati dal famigerato Tremonti, ci sono stati 240 opposizioni da parte dei 240 dipendenti, quindi lei ha ragione, però in politica spesso gli annunci sono annunci, i fatti poi non vengono. Abbiamo Claudia che ci chiama da Roma, prego Claudia. Buongiorno dottor Giannino, brevemente in questo poco tempo a disposizione vorrei esprimere questo concetto. A me pare che Tremonti sia come Voltaire di fronte alla dottrina di Leibniz del migliore dei mondi possibili. La politica è scollata completamente dalla realtà economica e Tremonti sta, per così dire, mettendo una pezza, ed è Voltaire, esattamente il suo Candide, nel quale diceva accontentiamoci di questa realtà e miglioriamo quello che abbiamo. Infatti Claudia le sta facendo un signor complimento a Tremonti. Sì, perché se leggiamo i numeri in realtà noi arriveremo a recuperare la decrescita del 2009 soltanto a fine 2013, quindi è una prospettiva diciamo di stabilità e conservativa. Si fa il fuoco con la legna che si ha. Io penso che noi dovremmo mettere più legna e far più fuoco, questo è il punto, Claudio. Comunque prendiamo atto, c'è chi come vedete dice Tremonti in realtà bisogna non solo salvarlo ma tenerselo stretto da questo punto di vista. Sì, io non nego affatto i meriti del ministro dell'economia, ripeto, altri anche della sua stessa maggioranza come evidente avrebbero speso di più e quindi saremmo finiti nel fuoco, sì, ma della crisi dell'eurodebito, e quello l'abbiamo evitato. Però questa prospettiva di bassa crescita non è la soluzione possibile per il paese, perché aggrava, su questo penso abbia ragione il governatore Draghi, è chiaro che Tremonti dice sì, quello fa bene, parla e tanto poi alla fine critica me, ma a me, io ho già tante critiche addosso, l'ho scossa al paese, è rischiosa, perché in realtà per dare una scossa bisogna allocare risorse, spostarle da dove sono oggi e dove non servono e metterle altrove, ed è questo in realtà secondo me che ispira la vera conversione al realismo di Giulio Tremonti in questi ultimi anni, perché spostare risorse, riallocarle, non fare tagli lineari, ridiscutere i presupposti delle constituency che sono aggregati come parassiti tenacissimi nella spesa pubblica, questa è la verità. Giulio Tremonti dice o ci fa capire come si fa a farlo, perché nella realtà nella maggioranza appena chiedo di toccare qualcosa succede l'ira di Dio. Voi pensate davvero che sia possibile fare come in altri paesi, confronti su tagli così radicali, svolte così radicali di allocazione? Nel nostro paese, a me questo sembra che sia, altro che il Candide di Voltaire, l'ispirazione del ministro negli anni crescente, è quella di una certa quella, non dico rassegnazione, ma di un giudizio della difficoltà elevatissima di poter davvero fare dei cambi di marcia, perché la spesa pubblica è vischiosa e perché destra e sinistra in questo sono uguali. uguali, perché infatti hanno una eguale responsabilità della crescita della spesa corrente nel decennio alle nostre spalle. Quei 7 punti di interessi in meno sul debito pubblico che abbiamo portato a casa con l'euro li abbiamo tradotti in spesa corrente aggiuntiva, ed è per questo, per quei 7 punti di pressione fiscale in più, che le imprese e i lavoratori dipendenti non hanno i margini per crescere come altrove, perché i lavoratori dipendenti non possono sostenere la domanda interna e perché le imprese pagano molte più tasse sul reddito lordo, come tutte le graduatorie internazionali ci confermano. Cominciamo con i direttori. Abbiamo con noi Umberto La Rocca, che è direttore del Secolo XIX. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Allora, la sua impressione, come ha presentato ai suoi lettori questi due documenti del governo ieri? Ma secondo me l'impressione è articolata in due punti, che i due documenti rispondano a due esigenze fondamentali. La prima è quella di non toccare, come diceva lei giustamente, non toccare l'equilibrio dei conti, e la seconda però è quella del consenso politico. E queste due caratteristiche congiunte fanno sì che la montagna inevitabilmente partorisca un topolino. Mi spiego meglio. Sul punto centrale degli aiuti alla crescita e allo sviluppo, mi pare che ci sia veramente poco. Faccio un esempio, il nucleare. Allora, esempio che può sembrare apparentemente secondario, ma nel documento si prende atto della decisione del governo di sospendere per ora la decisione. Bene, una delle riforme fondamentali in questo paese per le aziende sarebbe quella di ridurre il costo dell'elettricità, che è uno dei più alti in Europa. La scelta nucleare, a mio modo di vedere, era una scelta giusta, anche se tardiva, anche se non è certo che risolverebbe in tempi utili i nostri problemi energetici, ma comunque è una scelta. Bene, questa scelta è sospesa, ed è sospesa sì sull'onda emotiva dell'incidente in Giappone di Fukushima, ma è sospesa anche perché c'è un referendum che va disinnescato anziché affrontarlo a viso aperto. Secondo esempio molto semplice di il piano di riassetto, cosiddetto riassetto fiscale. Non c'è una data, non ci sono se non una dichiarazione di intenti nel documento. Si parla di eliminare le agevolazioni fiscali per quasi 200 miliardi, cioè intendo dire le detrazioni mirate, insomma, l'esenzione, l'erosione dell'imponibile. Bene, anche questa qui non sarà una misura che arriverà presto, ed è evidente che è questo, a mio modo di vedere almeno, un contentino dato dal ministro dell'Economia all'esigenza che ha il Presidente del Consiglio di presentare qualche cosa, ma complessivamente mi sembrano molto deludenti. L'ultima considerazione che faccio, e che mi ha colpito molto questa mattina, è che all'interno del piano c'è una diffusissima smentita di quel federalismo che nel frattempo si va faticosamente approvando attraverso l'approvazione progressiva dei decreti attuativi. E perché smentita? Lo dico perché prendiamo due punti a caso. Uno dei punti centrali per eliminare gli sprechi, uno dei punti centrali intanto per il rilancio, nonostante non abbia funzionato, e questo la dice lunga anche sull'entità di quello che è pomposamente stato chiamato, no, il piano nazionale delle riforme, è il piano casa. Bene, il piano casa, il governo prende atto che non ha funzionato, soprattutto perché gran parte delle regioni non hanno riuscito, la mia regione, la regione nella quale lavoro, la Liguria, una di queste, non sono riuscite a varare in tempi utili, per contrasti, certo, politici, un piano che funziona. Allora, in questo caso che cosa dice il piano nazionale delle riforme? Dice benissimo, in questo caso però se voi non l'approvate interveniamo noi di forza e ve lo imponiamo. Bene, prima smentita, prima, certo, presa d'atto. Prima e la presa seconda? D'atto. Ma la seconda è l'idea di una regia centrale per l'utilizzo e l'investimento dei fondi europei al sud che non vengono utilizzati. Cosa sacrosanta, voglio dire. Però certo che confligge con le competenze proprio. Ecco, da questo proprio ripartiremo dopo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci, tornati in studio, il direttore del Secolo XIX, quotidiano di Genova, Umberto La Rocca, citava tra gli esempi delle delusioni del Piano Nazionale delle Riforme anche la marcia indietro rispetto al federalismo, e aveva toccato uno dei punti che sono centrali poi rispetto alla bassa crescita italiana e al recupero dei gap degli obiettivi posti da qualunque strategia europea, cioè il mezzogiorno, diceva, l'utilizzo centralizzato o comunque la ridiscussione dell'allocazione dei criteri per l'utilizzo dei fondi europei. Abbiamo con noi il direttore del Mattino di Napoli, del quotidiano di Napoli, Virman Cusenza. Da questo punto di vista, direttore, innanzitutto buongiorno, ma qual è l'impressione che ha di quello che riserva questo capitolo, quello del sud, della crescita, del recupero dei gap del sud nei documenti del governo come l'avete presentato oggi ai vostri lettori? Che giudizio date? Buongiorno a voi innanzitutto. Noi diamo un giudizio sospeso, come non può non esserlo, un giudizio che riguarda il mezzogiorno in questo momento e i fondi europei, dal momento che sono stati più volte annunciati anche lo sblocco di questi fondi, è recentemente avvenuto in particolare per la sanità, che versava, come sapete, in condizioni pessime 5 miliardi di deficit appunto della regione. E naturalmente quello che, su cui insomma c'è un'incognita grande quanto una casa, è la possibilità, la capacità di spendere da parte appunto delle regioni stesse. Adesso a breve dovremmo avere l'anticipazione dei piani appunto per il 2011-2012 da parte della regione, e capiremo quanto sono in grado, con i progetti anche specifici, di poter agganciare questi fondi finora pessimi. Addirittura credo che siamo a percentuali vicine al 10% di quelli utilizzati rispetto appunto a quelli disponibili. Quindi insomma, onestamente è una situazione in cui forse si comincia a vedere la luce del buongiorno, ma siamo ancora lontani insomma dalla possibilità concreta di capire quanto riuscirà a spendere la Campania, per esempio. Ancora una volta nel documento si prospetta zone ad amministrazione zero, fisco differenziato, si dice che si chiederà all'Europa di passare a un utilizzo della parte dei fondi direttamente in incentivo fiscale, quindi con effetti che sarebbero molto più immediati. Direttore Cusenza, ma credere, perché dovrebbe questa volta avvenire qualche cosa che da anni vediamo promessa e non la vediamo mai nella realtà? Infatti questa mi pare un'ottima domanda. Il problema è che siamo sempre alle promesse. Recentemente mi ha molto colpito, devo dire, la dichiarazione di Tremonti a Milano, laddove ha promesso una sorta di no tax area, insomma defiscalizzazione per Milano. Ora la stessa cosa Tremonti l'ha promessa per il mezzogiorno, ma ancora non se ne è vista traccia, per cui io non capisco a cosa serva francamente la politica degli annunci, quando oggettivamente qui da queste parti, non parlo solo della Campania naturalmente, ma l'intero meridione, questo potrebbe essere veramente un volano importante. Del resto permettetemi anche un paragone di estrema attualità, è quello che in qualche modo si dice per i paesi dell'area del Maghreb, laddove si vuole fermare il flusso di immigrazione. Qual è la cosa più elementare? Aiutare questi paesi alla fonte, si dice, cioè come incentivare la presenza delle imprese dell'Occidente, dell'Europeo, in questo caso dell'Italia, che in questo modo potrebbero investire in quei paesi stessi, magari appunto con delle agevolazioni fiscali, e a quel punto risolvere un problema occupazionale lì e un problema di produttività qui in Italia. Quindi insomma gli strumenti ci sarebbero, quello che mi pare è che in questo momento manchi la volontà politica, insomma, al di là poi dei conti in rosso dell'Italia. Ecco, avete sentito anche i direttori di quotidiani come il Secolo XIX, come il Mattino, gruppi editoriali diversi e insomma tendenze, anche ispirazioni diverse in chi li conosce personalmente come professionisti e nei giornali che guidano, inevitabilmente dicono: ma delusione, ma perché credere alle promesse ancora? Questo credo che sia inevitabile da parte dell'informazione. Oggi vi abbiamo, del sottosegretario Casero, ci siamo sforzati di presentarvi punti di vista diversi, e la mia conclusione è questa: il realismo, quando diventa presa d'atto di una realtà immodificabile, è il peggiore degli errori. È il peggiore degli errori. Io riconosco tutti i meriti al ministro attuale di non aver fatto più deficit, ma il realismo di cui è impastata la politica italiana di fronte alla bassa crescita ci condanna a non credere più a una prospettiva di avere una crescita maggiore. Cito solo questo esempio, sempre, non di un paese liberista, non di un paese anglosassone, di un paese di Europa continentale. La pressione tributaria italiana, al netto quindi dei contributi, è del 30%. La pressione tributaria in Germania è di 6 punti e mezzo inferiore. Eppure ciò malgrado, al netto di ciò che spendiamo per pensioni e disoccupati, la nostra spesa sociale è di 10 punti di PIL, la loro è superiore a 14 punti e mezzo di PIL. Cosa vuol dire? Vuol dire che con molte meno tasse, con uno Stato organizzato diversamente, concentrato laddove serve e dimagrito e tagliato laddove non c'è, si può crescere molto di più e molto meglio, senza abbattere, come vedete, il welfare. Uso apposta questo dato semplice per far capire che la rassegnazione non ci aiuta a cambiare tutto quello che non funziona. Per questo io preferirei invece un paese in cui ci si magari confronta con durezza tra chi vuole più Stato distribuito diversamente e tra chi pensa che solo abbattendone una larga parte lo si concentrerà dove serve. Io sono di questa seconda categoria, ma io penso che la rassegnazione sia la peggior cosa, perché ci fa pensare che l'unica cosa è non votare più con le mani alle urne, ma per quello che mi riguarda votare coi piedi, andandosene via da questo paese piatto e rassegnato. A domani, Linea Giornale Radio.